Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Quattresima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Restiamo Animali adesso anche su Twitter, seguiteci, inviateci informazioni, retweetate i nostri tweet che sono visibili anche nella homepage del nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi e Lorenzo Guadagnucci. Con un pezzo spensierato e sbarazzino, come quello che sentite in sottofondo, apriamo questa 74esima puntata di Restiamo Animali. Ma non illudetevi, non vi faremo mancare le emozioni forti che sicuramente vi aspettate. Per gli amanti del genere, la canzone in questione è Can't Stop Moving, Non riesco a smettere di muovermi, di Sonny Jay. Con questa canzone vi preghiamo di allacciare le cinture dal momento che vi porteremo in Ungheria, in Australia, in Norvegia, ma anche nel cuore di Roma e nella toscanissima Chianciano. Voleremo in Australia, ma non sulle ali del grande uccello australiano che conosceremo da vicino oggi perché, ahimè, non vola, ma corre velocissimo. A lui dedichiamo una meravigliosa ballata intitolata Black Bird di un gruppo inglese di Liverpool che non ha bisogno della nostra presentazione. Per l'editoriale critico sul 10° congresso dell'arcicaccia recentemente conclusosi a Chianciano, abbiamo scelto un musicista inglese che ha dato la sua particolarissima voce ai Talking Heads. E il titolo esprime bene il nostro punto di vista, Psycho Killer. La redazione di Restiamo Animali sa ascoltare il grido di dolore, ma anche il grido di vita degli animali chiusi nei laboratori di vivisezione. Per l'intervista sulle uova di cioccolata ecosolidali della LAV, abbiamo scelto la magnifica voce di Rachel Morrison e del suo brano I Hear Your Call, sento il tuo richiamo, dell'anno 1988, quando cantava con il gruppo inglese Bliss. Con l'antropologa Anna Maria Rivera parleremo di razzismo mettendo in relazione i recenti fatti ungheresi con la battaglia animalista. Dedichiamo quindi Victims di Boy George and the Culture Club a tutte le vittime delle diverse forme di discriminazione umana. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird sang. Qui siamo con due pennuti. Sono due emu. Sono della stessa famiglia degli struzzi, ma mentre gli struzzi sono africani, gli emu sono australiani. Loro però provengono da uno zoo itinerante. Sono con noi da un bel po' di anni, sono con noi dal 93. Sequestrati nel 93 per maltrattamento ad uno zoo itinerante. Gli zoo itineranti sono una brutta realtà per gli animali, purtroppo, perché loro si spostano continuamente da una città all'altra, per cui gli animali è più il tempo che trascorrono di trasporto che quello in cui vengono fermati in uno spazio. E i trasporti sono quello il maltrattamento per gli animali, soprattutto la mancanza di spazio adeguato anche all'arrivo, ma il trasporto soprattutto. Loro avevano delle casse che erano più basse di loro, per cui tutto il viaggio non alzavano nemmeno la testa. E poi soggetti alle visite di bambini e quant'altro, quindi musica, chiasso, in spazi, ripeto, molto molto ristretti. Adesso vivono in riva ad un laghetto e convivono con un paio di cigni, vedo Sono germani reali, ne vedo tre in questo momento di germani reali. Che cosa mangiano questi emu? Allora, mangiano indicativamente ogni giorno circa 3 kg a testa di frutta, verdura, granaglie, un po' di pane. Loro comunque, i cigni e i germani, ci tengo a precisare che hanno tutte le ali intere, se vogliono possono andarsene. Cioè, quindi è una scelta quella di rimanere qua, hanno fatto anche amicizia con gli emu, mi sembra di capire, visto che convivono nello stesso laghetto. Facciamo sempre gli adattamenti prima di lasciare gli animali, cioè ogni animale quando viene messo in uno spazio, diciamo prima di essere lasciato totalmente libero, viene fatto un adattamento. Lo abbiamo fatto con i germani, l'abbiamo fatto anche col cigno. Il cigno l'abbiamo recuperato quest'inverno con le grandi nevicate e l'altro era anche quello vagante, è stato recuperato anche. La fortuna vuole che sono maschio e femmina. Avevamo recuperato anche un altro maschio, ma quello l'abbiamo portato in un'oasi vicino a Bologna. E invece loro due vanno d'accordo e quindi sono rimasti insieme. I germani lo stesso, sono stati trovati pulcini piccoli, li abbiamo svezzati e poi abbiamo messo una grossa gabbia vicino qua al lago e durante il giorno li lasciavamo lì e ogni sera li riprendevamo in stalla con la gabbia. È un po' macchinoso e scomodo, ma ha funzionato. Ha dato un frutto straordinario perché adesso sono evidentemente soddisfatti della loro sistemazione. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Tense and nervous, can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Da tempo sondaggi e indagini conoscitive indicano un generale rifiuto popolare della caccia, in crisi anche per numero di praticanti, stimati in circa 800.000 rispetto ai milioni di pochi anni fa. La caccia sembrerebbe insomma un passo dall'uscita dalla storia, ma anno dopo anno l'universo venatorio riesce a proteggere se stesso da tutte le insidie. Come fanno i cacciatori a resistere, a evitare che si approvi a furor di popolo una legge che proibisca la caccia? Un pezzo di risposta ha naturalmente a che fare con i soldi. L'industria venatoria ha dimensioni davvero notevoli. Si stima che una stagione per ogni singolo cacciatore valga intorno agli 800 euro di media. Ma la forza economica e ideologica dell'industria delle armi non basta a spiegare la permanenza nel consesso civile di una pratica odiosa qual è uccidere per divertimento. Insomma, perché i cacciatori e le loro associazioni sono ancora interlocutori accettati nel mondo politico e istituzionale? Un bel dilemma. Un buon osservatorio per provare a capirne qualcosa è l'Arcicaccia, che potremmo definire l'ala venatoria del centro-sinistra. Arcicaccia ha tenuto nello scorso fine settimana a Chianciano Terme il suo congresso nazionale, la cui impostazione fa capire lungo quali direttrici i cacciatori cercano una nuova legittimazione. Possiamo dire che i filoni sono tre. Primo, accreditarsi come ambientalisti. Secondo, allearsi con le organizzazioni degli agricoltori. Terzo, fiancheggiare strettissimamente le forze politiche amiche. In questo caso ovviamente quelle di centrosinistra. I tre piani sono intrecciati e pressoché inscindibili. Basta scorrere il programma del congresso e dare un'occhiata al sito con le ultime iniziative. Arcicaccia, alla vigilia delle elezioni politiche, ha lanciato una campagna rivelatrice. Si chiama Fauna Bene Comune. Richiama, da un lato, ma banalizzandola, la nozione di beni comuni, al plurale, che è un nuovo paradigma politico in opposizione al pensiero unico neoliberista. Al singolare, bene comune evoca più banalmente il prendersi cura di qualcosa, in questo caso la fauna, che per i cacciatori, come ovvio, è la materia prima della loro attività. Ma Italia bene comune è anche lo slogan scelto dal centro-sinistra per la sua campagna elettorale. In questo senso va riconosciuto che a darci caccia non ha fatto certo difetto la chiarezza. Dopotutto i cacciatori e i loro familiari sono elettori e infatti le sottoscrizioni all'appello Fauna bene comune sono fioccate tra i candidati di Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Citiamo qualche nome: Pierluigi Bersani, Ermete Realacci, Renzo Olivieri, Marina Sereni, Susanna Cenni, Claudio Fava, Nicola Latorre, Roberto Natale, Stefano 40, Gabriele Berni, Luca Sani, eccetera, eccetera. Il preteso nesso con l'ambientalismo è assicurato da affermazioni come questa, aperte virgolette. La fauna evoca la bellezza del paesaggio, la vitalità delle nostre campagne, la forza e il buon governo del territorio che non può prescindere dalla necessità di mettere un argine alla devastazione e al consumo speculativo del suolo. Chiuse virgolette. Gli argomenti, secondo me, non sono molto forti. Mancano ad esempio cenni all'industria delle armi, al piombo disseminato nei boschi e a quel che davvero servirebbe per fermare la cementificazione, non certo l'uccisione di massa degli animali selvatici. Ma la copertura è comunque garantita dall'ambientalismo debole di Legambiente, partner di Arcicaccia in questa campagna e presenza forte anche durante il convegno della scorsa settimana, insieme con la CIA, la Confederazione degli Agricoltori, anch'essa vicina al centro-sinistra politico. Al congresso di Chianciano si è anche assistito a un dibattito, ai nostri occhi un po' surreale, sulla questione di genere in ambito venatorio. La ex deputata, ora dirigente di Sinistra Ecologia Libertà Fulvia Bandoli, la deputata del PD Susanna Cenni, Rossella Moroni, direttrice di Legambiente e altre figure dirigenziali dell'associazionismo amico, hanno dato vita a una tavola rotonda per smentire, così hanno spiegato, il luogo comune secondo il quale la caccia è una ridotta del maschilismo. Sarà. Ma intanto durante la campagna elettorale Arcicaccia si è fatta notare per un attacco non proprio in grande stile a due deputate del centrodestra, Michela Vittoria Brambilla e Fiorella Ceccacci Rubino, definite paladine dell'animalismo nostrano. Arcicaccia le ha messe sotto accusa non per le loro posizioni sul trattamento degli animali o per la loro avversione alla caccia, bensì dicendo che avrebbero come principali meriti essere belle ma poco avvezze alle fatiche parlamentari, aver contribuito all'elezione del Parlamento uscente più sexy di sempre, aver girato un video, la prima con la presenza di una tigre, e un cortometraggio erotico, la seconda, in cui mima i movimenti di un gatto. Non amiamo la destra e non simpatizziamo per le politiche animaliste di Brambilla e Ceccacci Rubino, ma ci permettiamo di avere qualche dubbio in più rispetto alle onorevoli partecipanti al seminario di Cancelmo Terme sul fatto che il maschilismo in ambiente venatorio sia solo un luogo comune. Magari ci sbagliamo, lo capiremo meglio in futuro. Ma intanto, osservando il congresso di Arcicaccia, ci sembra di aver capito qual è il vero segreto di questa organizzazione, oltre alle sue strategie di avvinghiamento, più che di fiancheggiamento dei poteri amici. Il segreto è non parlare di caccia. Non parlare del sangue, della moltitudine di animali uccisi per un macabro e crudele divertimento, del piombo disseminato nei boschi e meno che mai, ovviamente, dei morti e feriti fra gli umani. 21 morti e 97 feriti nell'ultima stagione venatoria, che è stata in tutto di 62 giornate di caccia effettive, quindi un morto ogni 3 giorni. Per salvare la caccia, tentano di far dimenticare quel che la caccia è. Ciao a tutti, vi presento Bobby. Saluta Bobby. Bravo, Bobby era un cane da laboratorio. No, buono Bobby. Ora è libero e ha una casa, ma molti animali non sono così fortunati. Vi state chiedendo come aiutarli? Diglielo Bobby. Proprio così. Uova di Pasqua. Ogni giorno la LAV si batte per i diritti di tutti gli animali. Sostienila anche tu. Vieni in piazza nei weekend del 16 e del 23 marzo e compra le nostre uova di cioccolato. Trovi la piazza più vicina a te su lav.it. So what's wrong at all? telefono con Mariangela Corrieri, la responsabile dell'Hub della sede di Firenze. La Lega Antivivisezione è un'associazione italiana nata nel 1977 con l'obiettivo di abolire la vivisezione. Buongiorno Mariangela. Buongiorno. E la giornata di ieri e di oggi, dalle 10 alle 19, e anche il prossimo fine settimana, 23-24 marzo, sempre dalle 10 alle 19, i banchetti della LAV sono nelle piazze a Firenze in pieno centro, in via Pellicceria, a proporre uova di Pasqua, eco, solidale, naturalmente cruelty free, e a raccogliere firme per una petizione popolare della quale chiedo appunto a Mariangela. La petizione è praticamente si rivolge al Presidente del Consiglio dei Ministri, Senato e Camera dei Deputati. Cosa si chiede questa petizione? Questa petizione è di lo stop alla distribuzione del sostegno e mezzo di sicurezza, che è in Italia, soprattutto a livello europeo, che trattano di mezzo di sostegno. Perché non necessitare di mezzo di inoltre con questa petizione si chiede anche, per esempio, un maggior contrasto alla banda dal radagismo, una famiglia di tre a carica. Perché non si rispetta queste famiglie che sono cittadini come tutti gli altri e che hanno animali? C'è un randagismo, un abbandono tremendo. Ci sono comuni che non attivano la legge del 1991. In questa posizione si chiede anche lo stop alla caccia. Che cos'è la caccia? La caccia è un divertimento crudele che toglie la vita a tanti esseri che hanno la vita per divertimento. Come si può pensare che la caccia sia esercizio che può ancora continuare ad esistere in un mondo moderno, in una società che sta innalzando il livello della sua coscienza? Un altro punto importante è il divieto di allevare gli animali per la protezione. Magari le persone non si rendono neppure conto che hanno un cadavere intorno al tappeto, nella giacca, intorno al colletto, e dice no ai figli con animali, che vuol dire che i figli con gli animali dovrebbero essere tutti sostituiti per i figli che hanno soltanto la gravura delle persone. Perché si devono sfruttare gli animali? Perché si devono costringere il piccolo delle gabbie, dove si ammalano? I leoni sono abituati al caldo e devono andare in ambienti dove c'è la neve. Gli elefanti che vivono in gruppo possono sepitare. Sono sempre state chiamate anche una corsa, vengono trattati male, pungolati, eccetera, eccetera. Quindi anche lì il trattato di Lisbona deve entrare in questo. Perché non c'è forse tanto il trattato di Lisbona, c'è addirittura la dichiarazione di Genova. Il gruppo di scienziati che è riunito e ha stabilito che gli animali hanno coscienza, quindi sono vivi, sono coscienti, perché si devono trattare come cose. Chiedere nuove leggi a favore degli animali riporta la questione su un piano eminentemente politico, perché la battaglia animalista è una battaglia politica. Sono due gli aspetti importanti, quella dell'educazione che viene prima del reato, diciamo così, e quella dopo della politica, quindi della legge, che impone un comportamento. Quindi prevenzione, sanzione, ma anche investimento, perché canili, sterilizzazioni, campagne di adozioni, indagini e sequestri di animali maltrattati, il loro mantenimento successivo, la trasformazione degli zoo privati in bioparchi pubblici in cui il benessere animale sia veramente la priorità, sono tutte operazioni assai costose. In questi tempi di tagli il rischio è che gli animali siano i primi ovviamente a soffrire delle ristrettezze economiche, per cui è importante che la politica invece faccia delle scelte coraggiose. È il momento di fare delle scelte coraggiose, perché la coscienza mondiale sta migliorando, sta crescendo, sta aumentando, non vuole più vedere certe cose, quindi la politica deve fare delle scelte coraggiose, ma non è detto che siano scelte costose. Se per esempio si trasformano gli zoo, gli acquari, i delfinari in centri di recupero, questi ambienti potrebbero accogliere animali sequestrati da maltrattamenti, animali dismessi dai circhi, invece che costruire cattedrali nel deserto che tutti i giorni ci fanno vedere, incompiute, che hanno richiesto miliardi buttati via, si potrebbe invece realizzare delle cose anche a costi bassi. Si spera che questo prossimo governo e questo prossimo Parlamento diano anche un po' d'attenzione all'argomento della nostra qualità della vita, della qualità della vita di un cittadino, perché se io vivo col mio cane e con i miei gatti, vuol dire che io sto bene con il mio cane e con i miei gatti, che ho bisogno della loro compagnia e quindi mi devono rendere la vita con loro più facile, non il redditometro che dichiara che possedere un animale è una ricchezza. Magari io l'ho tolto dalla strada, l'ho sterilizzato, cosa che avrebbe dovuto fare il comune e che il comune non ha fatto. Diminuire l'IVA sui medicinali, rendere i medicinali più accessibili, ma sono tante le possibilità per aiutare questi cittadini, per ascoltare questi cittadini. Appuntamento quindi in via Pellicceria, lato Piazza della Repubblica a Firenze, oggi, domenica 17 marzo 2013 fino alle ore 19, ma anche sabato 23 e domenica 24, per acquistare le uova di cioccolata ecosolidali della LAV e firmare la petizione con l'obiettivo di dare un futuro migliore ai nostri amici e fratelli animali. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi vi spiego come preparare un dolce classico della tradizione, ovviamente rivisitato in versione vega, la torta della nonna. Si tratta di un guscio di pasta frolla che racchiude una deliziosa crema gialla, cosparsa di pinoli e zucchero a velo. Vi spiego come l'ho fatta. Gli ingredienti per la base di frolla sono 350 g di farina, 120 g di zucchero, 60 g di olio di semi, un cucchiaino di bicarbonato, scorza di limone grattugiata, latte di riso o acqua quanto basta. Per la crema gialla invece ci serviranno mezzo litro di latte di soia, 5 cucchiai di farina, 5 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, un cucchiaino di curcuma, un pizzico di zenzero in polvere, succo di mezzo limone, buccia grattugiata di limone, qualche goccia di essenza di vaniglia, inoltre 60 g di pinoli e zucchero a velo. Iniziate preparando la base di frolla, impastando velocemente la farina con lo zucchero, il bicarbonato, la scorza di limone, l'olio e aggiungendo gradualmente latte oppure acqua, sino ad ottenere un impasto bello sodo e omogeneo, facilmente lavorabile. Mettetelo a riposare in frigo. Nel frattempo preparate la crema. In una pentola versate la farina, lo zucchero, la curcuma, lo zenzero, la scorza di limone e il sale. Aggiungete il latte a filo, mescolando bene con una frusta per non creare grumi. Portate sul fuoco e fate cuocere dolcemente finché la crema non inizia a bollire e si addensa. Toglietela dal fuoco, aggiungete il succo di limone, l'essenza di vaniglia, se l'avete, altrimenti fa lo stesso, e lasciate raffreddare. In questi giorni basta metterla sulla finestra per qualche minuto. Stendete ora 2/3 della pasta, di uno spessore di pochi millimetri, e rivestite con questo una tortiera. Bucherellate bene la superficie con una forchetta. Versateci sopra tutta la crema e stendetela bene sino ai bordi. Stendete col mattarello la pasta rimasta e utilizzatela per coprire la torta. Sigillate bene i bordi e i lati, bucherellate anche questa sfoglia con la forchetta e pennellatela con una miscela fatta con 2 cucchiai d'acqua e uno d'olio. Cospargete ora la superficie con i pinoli. Cuocete la torta in forno ben caldo a 180 gradi per almeno 40 minuti. Lasciatela raffreddare completamente nel forno. Prima di servirla, sarebbe meglio se poteste conservarla qualche ora in frigo, cospargetela di zucchero a velo. Ciao, alla prossima! ed il tuo cuore mi batterà. Oh, oh. Per sognare i più bei sogni di purità. La bella, la bestia e l'umano con Anna Maria Rivera. Con Anna Maria Rivera parliamo stavolta del nesso che lega razzismo e antispecismo a partire da una notizia che arriva dall'Ungheria. Il giornale Magyar Hírlap, vicino al governo di estrema destra del premier Viktor Orbán, qualche tempo fa ha proposto un accostamento di questo tipo. Gli animali zingari, questo testo, non sono degni di vivere come gli esseri umani. La gran parte di loro sono autentici assassini da eliminare. Anna Maria Rivera, che tipo di considerazioni possiamo fare a partire da questo che è l'ennesimo esempio di razzismo a mezzo stampa in Europa? Il giornalista in questione, tale Sonia, aggiunge anche che come gli animali hanno la caratteristica di agganciare in tutto ciò. E certo, razzista, poi si inferiorizzano per poter poi inferiorizzare gli umani, no? Ma io volevo osservare questo proposito, che è la notizia che del 9 gennaio è poi stata ripresa più tardi, per esempio, da una breve dell'ANSA che sottolineava come questa campagna ha portato al fatto che una serie di grandi internazionali hanno considerato lo stesso giornale che abbiamo citato, Kenya per esempio, ma anche altri gruppi francesi, americani importanti. Io poi sono andata a indagare e ho scoperto che il 9 gennaio la notizia era stata ripresa e commentata con toni molto indignati in un articolo del Corriere della Sera. Il giornalista diceva più o meno, ma fino a quando l'Ungheria continuerà a usare della pazienza dell'Unione Europea, l'hanno annunciato con un ennesimo e sinistro, qui sto citando letteralmente, un ennesimo e sinistro latrato e razzista di un'azione di qualche mondo radicato insieme dell'intolleranza dell'odio etnico in questo paese. E quello che mi ha colpito è che il Corriere della Sera è il giornale che il 25 dicembre 2020 ricorda che come dire, la prima bozza della rabbia e l'orgoglio, dove proprio alla stessa maniera si usava una metafora zoologica e in tal caso per i migranti l'indice dell'umana vera contro Cacciallaci scriveva si moltiplicano come torri dominano le impatienze e capiranno la società della volgarità capiranno. Anzitutto dell'antisemitismo, classicamente potremmo dire antisemita. Ebbene, questa pubblicazione non provocò alcuna indignazione se non da parte dei suoi piacerati. Questo è il primo episodio che dimostra come il rispetto ad atteggiamenti, a enunciati, affermazioni terribili del tipo, si usino prese due misure. Io ricordo, tra l'altro, che più tardi, precisamente il 9 aprile 2008 a Milano, il deputato leghista Matteo Salvini osò affermare in pubblico che i topi sono più facili da debellare degli zingari perché sono più piccoli. Una frase agghiacciante. Ci sono passaggi meravigliosi di Adorno su questa analogia, su questo dispositivo che stabilisce un'analogia tra gli umani e i non umani. Adorno scriveva in Minima Moralia l'affermazione ricorrente che i selvaggi neri giapponesi somigliano ad animali o a scimmie contiene già la chiave del pogrom. E poi in un altro passaggio diceva che l'ostinazione con cui si devia da sé lo sguardo ripetendosi non è che un animale, si ripete incessantemente nelle crudeltà commesse sugli uomini, in cui gli esecutori devono sempre di nuovo confermare a se stessi il non è che un animale, a cui non riuscivano a credere neppure nel caso dell'animale. Come possiamo commentare questo passaggio straordinario? Dicendo che in realtà nella, come dire, nella semantica occidentale dei rapporti di dominio il ricorso alla metafora dell'animalità è una costante che noi ritroviamo anzitutto, come ho detto prima, nell'antisemitismo, ma anche nel sessismo, nel razzismo coloniale, ma perfino nel neorazzismo dei nostri giorni, come abbiamo visto. In particolare, chiudo con questo, per i corpi delle donne e degli animali noi assistiamo ad un frazionamento, a un, come possiamo chiamarlo, ad un sezionamento dei corpi, no? Il corpo viene considerato nelle sue singole parti che dovrebbero essere rappresentative dell'intero corpo. Chiudo con questa analogia, una bella mansa si dice sia del corpo degli animali che del corpo delle donne. Non ci potrebbe essere, credo, esempio più parlante di questo, no? A dire quello che io ho cercato di dire, forse in maniera un po' astratta, forse anche un po' confusa fino ad ora. Shine in your eyes when they kiss and tell. Strange creatures we never see, but you're always there like a ghost in my dream, and I keep on. Visto che il Vaticano è al centro della notizia, l'8 marzo va detto che l'Associazione Animalisti Italiani, sostenitori in Italia della PETA americana, ha compiuto un clamoroso blitz. Gli attivisti si sono incatenati davanti alla storica sartoria ecclesiastica Giammarelli. Metteremo nel nostro blog le fotografie di questa esilarante manifestazione. L'Associazione Animalisti Italiani protesta contro l'anacronistica scelta di una mantellina rossa con finiture in pelliccia di ermellino bianco tra i vestiti destinati al nuovo pontefice, insieme a un copricapo di ermellino e a scarpe di canguro. Gli slogan sono stati del tipo «Al nuovo papa una preghiera, non indossare la pelliccia», «Preghiamo il papa di non indossare la sofferenza», «Appello al nuovo pontefice, no a un abito con animali morti». Walter Caporale, presidente dell'Associazione Animalisti Italiani Onlus, ha dichiarato: «Tra scandali, IOR, pedofilia, misteri, ora qualcuno in Vaticano ha pensato di ordinare 3 abiti per il nuovo pontefice del valore di migliaia di euro. Oggi rivolgiamo al prossimo Papa la preghiera di non indossare la crudeltà e la sofferenza di decine di animali». A giudicare dalle fotografie, gli attivisti si sono divertiti parecchio. ci è molto dispiaciuto non essere presenti e non partecipare a questo divertentissimo presidio che sembrava una vera carnevalata. Da 23 aziende che producono olio di palma, responsabile della deforestazione e della morte di tanti orango e altri animali. È importante far conoscere ai consumatori l'impatto negativo che la coltivazione di olio di palma ha sulle grandi scimmie e il loro habitat. In Asia sudorientale, nel Borneo e a Sumatra, infatti, più dell'80% dell'habitat degli orangotango è andato perduto a causa della conversione agricola dello scorso ventennio, destinata soprattutto alla produzione dell'olio di palma rosso. La popolazione degli orango è stata decimata e l'orango di Sumatra è stato addirittura dichiarata specie ad alto rischio di estinzione. Dice Jane Goodall nel sito janegoodall-italia.org: i consumatori devono capire che i prodotti che contengono olio di palma, dal cioccolato alle vernici, sono spesso prodotti a spese degli orangutango e delle loro foreste. Video satirici, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. E ricordate che Restiamo Animali è anche su Twitter. Seguiteci! Ci risentiamo giovedì mattina alle 9.50 per l'edizione breve di Restiamo Animali che va in replica alle 15.40. E ovviamente domenica prossima alla solita ora, a mezzogiorno, sulle onde di Controradio. Restiamo animali! Restiamo animali! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.